Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8:20 e c'è con noi Oscar. Eccolo Oscar, come Eccoci stai? Eccoci qua in questo mercoledì 20 di aprile, santi, oggi è un santo particolare perché c'è la moglie del Presidente del Consiglio, ragazzi, quindi silenzio, tutti accendete il cero e dice la preghierina, Sant'Agnese di Montepulciano, per favore pensaci tu, noi ti preghiamo, mettiamo veramente, metti la mano sulle nostre teste, Agnese, perché abbiamo l'impressione che solo tu riesci di quando in quando a mettere un po' in regola l'esuberanza del nostro Matteuccio. Non pensi? Io penso che a casa comandi Agnese. Beh, come tutte le donne. Ah, ecco, vabbè, vedo che siamo abbondantemente rassegnati già questa roba. Come tutte le donne. Vabbè, ma forse è probabile che tu abbia ragione, anzi, ammettiamolo, sì, così. Quindi Agnese, tienilo lì ogni tanto, perché mo dice che qui c'è il giustizialismo, la barbarie. Comunque, vediamo, perché nei santi di oggi ce n'è anche uno che piace invece al nostro presidente dell'ANM, perché oggi è un'altra volta, ho scoperto che ce n'è più di uno, è un altro San Secondino. Ah, quindi questo invece piace a Davigo. E quindi piace a Davigo, per così dire. E quindi ognuno al suo secondino, Matteuccio c'è Agnese. Però, tra gli altri santi, Sulpicio, Serviziano, Sara di Antiochia, un Donnino e un Atanasio, Atanasio Cavallo Vanesio. Allora, questi santi di oggi, nel 1964 oggi il primo vasetto di Nutella usciva dalla linea di produzione. E quindi... Onore. Beh, oggi c'è anche i Natali importanti. Oggi è nato Adolf Hitler. Beh, ma soprattutto no, lo ricordo perché oggi è nata anche mia figlia Angelica, che compie 10 anni. Forse è più importante, ammettiamolo. Sicuramente. Dai. Oh, ecco, sicuramente. Mi hai glaciato con questa idea Adolf Hitler. No, perché la ricordo, è facile ricordarla perché insomma, è nata il giorno Adolf Hitler e Massimo D'Alema, lo sapevi? Però vedo che a casa tua le donne comandano non solo per via materna, ma anche per la figlia, perché se mi fai questo accostamento. No, vabbè, insomma. No, è nata il giorno di Massimo D'Alema e di Adolf Hitler. Allora, caro marito che crescerai, futuro della nostra Adolfina Massimina, solidarietà. Ecco. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, come ci hai detto Oscar, insomma, è tornato attento che il secondino arriva. No, è tornato, è tornata la battaglia tra politica e magistratura, mai è scomparsa negli ultimi 25 anni? È sempre rimasta sui radar. La novità è che però da parecchio, insomma, non è più solo Berlusconi, è cambiata la politica che l'anima. Infatti oggi Renzi napolitano. Esatto, il Fatto Quotidiano, che ha un'intervista lunga a Davigo, dice Renzi come Berlusconi, proprio, no? Su questo c'è un assist sui giudici. Sentiamo cosa ha detto Renzi sulla barbarie giustizialista. Questo paese ha conosciuto figure di giudici eroi. Ma questo paese ha conosciuto anche negli ultimi 20 anni, negli ultimi 25 anni, pagine di autentica barbarie legate al giustizialismo. Un avviso di garanzia, strumento processuale a tutela dell'indagato, è stato per oltre 20 anni una sentenza mediatica definitiva. E vabbè, insomma... L'avviso di garanzia non è una sentenza, cose che si sanno, si dovrebbero sapere, ma insomma dette dal Presidente del Consiglio. Punto è che naturalmente adesso Presidente, io amerei invece che le polemiche generali, io amerei delle precisazioni su vicende puntuali. Cioè, io dico questo, perché così è ovvio che si becca la risposta di Davigo, e Davigo si dice scusa, guarda chi candidi, no? All'intervista dice questo. Sì. Però io invece avrei preferito un'altra cosa. Cioè, io capisco un Presidente del Consiglio dica, signori, i verbali che stiamo leggendo di persone non indagate di dell'indagine X o Y, siccome sono materiali non depositati, possono essere usciti solo dall'ufficio del PM, perché non ce l'hanno gli avvocati, non ce l'hanno i cancellieri, eccetera, eccetera. e siccome è una violazione di legge, io esigo che ci sia qualcuno che paghi. Allora, un po' ce l'ha detto qualche giorno fa Zanetti, dicendo ci piacerebbe che se però, ci sono delle intercettazioni uscite in modo sbagliato, anche qualche lì, PM, se ci sono, quelle possono essere uscite solo così. Allora, però, si prende un caso particolare di violazione patente e si solleva il caso, questo sì, fondatissimo, che mai i PM ne rispondono, ma solo perché in quel caso sei certo che può essere solo lui, perché quando si deposita è chiaro che poi si pubblica tutto, è un altro paio di maniche, sì, proprio dal punto di vista. Ma invece non è questo, è sparare a zero, per così dire. Sparare a zero ci riporta alle solite questioni che vediamo. E comunque Davigo oggi nell'intervista dice: non c'è nessuna guerra, se c'è frizione tra i poteri dello Stato questo è un bene, l'alternativa è la monarchia assoluta. Dice, no, se andassero d'accordo tutti i poteri questo dello Stato. Testimonia che lui ha in testa che lui deve riequilibrare politicamente. Però. Ma lui dice è la politica che manca fare pulizia, cioè la politica dovrebbe smetterla di delegare ai magistrati la selezione delle classi dirigenti e poi lamentarsi pure, cioè candidano persone che fanno quello che fanno e poi se arriva la condanna strillano pure. Questo dice Davigo, no? Però non ti sfuggirà che quando lui fa l'esempio, ma vogliamo tornare al tempo del re, il re era sempre d'accordo con se stessi, i poteri non possono andare d'accordo con se stessi. Mm. Lui attribuisce alla magistratura un indirizzo politico, coerenza con la sua vita, non è che dico. È questa cosa che non va neanche in Davigo, perché quando lui dice invece la politica non fa pulizia, io gli do pienamente ragione. Quando mi espone una teoria della frizione tra poteri dicendo, beh, cosa pretendete? È ovvio. Ecco, quello è un ruolo, secondo me, che in Costituzione non c'è proprio. Però dice, il ritorno alla monarchia assoluta è quella dove il sovrano deteneva tutti i poteri senza contrasti. No, cioè, il re era sempre d'accordo con se stesso. Perché deteneva tutti i poteri. D'accordo con se stesso, sull'indirizzo politico. No, stai attento. Ci sono delle sfumature, ma lo conosciamo da tempo, il pensiero di Davigo e di tanti altri magistrati italiani, che come sta scritto, anche se Davigo non appartiene a quell'indirizzo, nello statuto mai cambiato nella magistratura democratica, si attribuisce alla giurisdizione un indirizzo politico e questo per pezzi della magistratura è anche dichiarato, quindi non scopro l'acqua calda. E quindi siamo un po' sul filo anche nelle parole di Davigo. Sul filo. Comunque tra l'altro Davigo dice che non ci vuole neanche una riforma sulle intercettazioni, eccetera, basta la diffamazione e la privacy, cioè laddove le intercettazioni vadano a ledere la privacy personale c'è il reato di diffamazione e quindi Davigo dice così non c'è bisogno di leggi, non c'è bisogno di stringere i cordoni. Quando qualche giorno fa il vicepresidente CSM Legnini ha detto che danneggia la magistratura la pubblicazione che continua a essere ricorrente di verbali di indagine eccetera eccetera, secondo te non ce l'aveva coi PM dell'inchiesta? Secondo me sì. Allora la differenza sarebbe se ci fossero delle iniziative disciplinari assunte dagli stessi magistrati, proposte dagli stessi magistrati in CSM, e invece non ci sono. Questo è il punto. Questo è comunque, insomma, lo scontro c'è. Secondo la stampa addirittura Renzi prefigura qualche sviluppo d'inchiesta, cioè perché ha fatto questo attacco, poi ha fatto anche l'attacco mediatico, cioè, no, come specialista l'attacco mediatico nel senso per l'ennesima volta ha detto i talk show non sono la rappresentazione del paese. Io su questo sono d'accordo, cioè non è che i talk show debbano rappresentare il paese, però si traduce, i talk show mi danno addosso e questo è un altro po' di mani. sì, questo è, i talk show non sono la rappresentazione del paese, è una critica a come i talk show, evidentemente, che io non seguo, hanno rappresentato, non so, il post referendum, il pre referendum, no, il post eccetera eccetera, cioè però senti, ieri abbiamo letto quanti minuti al giorno sta in televisione il signor presidente del consiglio, cioè, non si parla uguali di Renzi per 84 minuti al giorno, questa è la statistica. C'è solo che Barbara D'Urso che lo batte, la differenza è che Barbara D'Urso conduce ogni giorno una lunga trasmissione. Vabbè, però anche è vero che Barbara D'Urso è concentrata in quelle ore con un titolo, appunto. Di Renzi si parlerà nei vari telegiornali, quindi questo è più significativa la sua presenza, no? Però bisognerebbe capire anche quanto se ne parla bene e quanto male. Beh, anche questo andrebbe per una corretta statistica. 84 per una minuti. Correttissima statistica sono d'accordo. Intanto però la percentuale di presenza è tutto tranne che il segno. Che, no, questo certamente. Trascurato non mi sembra. C'è più di Antonella Clerici. Antonella Clerici che erano 75 minuti. E come 84. Si vede, poi Antonella Clerici sviene ed è costretta. Cioè, quindi, ci sono dei limiti oltre i quali poi Antonella, capitano delle cose. Lo dico solidalmente. Io sono preoccupato, Presidente. Così, se no poi ti devono portare via perché svieni, troppa presenza. Agnese, ci aiuti lei. Allora, ci chiama Gianluigi da Firenze. Buongiorno Gianluigi. Sì, buongiorno. Eccoci, dica. Sì, buongiorno, volevo intervenire sull'articolo, sull'intervista di Davigo, sì, ha fatto quotidiano. Sì. che ora andrò subito a comprare in edicola, perché se, spero che Milan abbia letto male, ma non credo. Cioè che cosa? Che parte? Sui due esempi che fa Davigo. Eh no, l'esempio quella, tipo quello, lo diciamo, quello del trans, no? Del trans e quello del pedofilo. A tutela delle intercettazioni, lo spieghiamo a chi non ha ascoltato, esatto. Dice Davigo, esempio, chi ha detto che le intercettazioni non sono a volte a tutela della difesa? Per esempio, un tizio intercettato racconta una serata con un trans, tutti pensano, orrore, ma se poi quella intercettazione gli fornisce un alibi per un delitto? Giusto, e io ritengo, cioè il giudice è così, se mi consente il termine, così vispo da non capire da sé che se fa l'indagine su quell'intercettazione e verifica che quella è effettivamente andata a trans, c'ha bisogno di farlo leggere alla difesa? No, non è che non è vispo, cioè lui dice, non spetta a me riguardare altri profili se non quelli dell'evidenza processuale, quindi se secondo me serve a dargli un alibi, io lo metto, ovviamente, però il ragionamento è così stirato che rivela, tradotto, a me delle conseguenze non processuali di chi sta lì non me ne frega niente. Sì, no, ma il principio, però, Gianluigi, è se c'è un delitto giorno e il giudice scopre e il magistrato scopre che quel giorno la persona era trans, lo deve mettere nelle intercettazioni a tutela, paradossalmente a tutela, perché fornisce un alibi della persona che sta indagando. Ma sono d'accordo, ma siccome non ho sentito male, la legge nuova parla del discorso che si può dare adito all'ascolto, alla difesa delle intercettazioni. Sì. Giusto? Allora, la difesa all'ascolto dice, oh, questo è rilevante, bene, si fa l'indagine. Quindi allora, se è rilevante, finisce le intercettazioni e finisce pubblicata. Ma non vada mica pubblicata dappertutto, ah, ecco, non cazza niente. E poi sul pedofilo la cosa più inquietante, considerando l'incarico che ha Davigo, cioè che lui come giudice dice che se quello è pedofilo, si è rinviato a giudizio. Se il mio vicino di casa è rinviato a giudizio per pedofilia, io mia figlia di 6 anni non gliela affido. Se poi verrà scagionato, si vedrà. Questo livello, un giudice non si fida del giudizio di altri giudici. Quindi continua a essere dubbioso perché intanto gli ha scritto la patente di delinquente. E poi si starà a vedere. Un mito come ragionamento da uno che è a capo della magistratura, veramente notevole. A lei non piace. No, su questo anch'io sono perplesso, perché molti mi hanno scritto: tua figlia, mia figlia non la affido a uno che non conosco, sia che non sia indagato, sia che sia indagato. Capiterà col fidanzato a un certo punto. Sì, inutile che ti illudi, caro Papino. Capiterà. Però capisco quello che stai dicendo, no? Capisco quello che stai dicendo. A me ha colpito anche l'esempio che fa quello del professore con le allieve. Sì, il professore con le allieve. Perché mi ha colpito? Raccontacelo. Aspetta, perché dice a un certo punto. Allora, avete visto, ricordo la vicenda di un professore universitario che faceva sesso con le allieve, sempre, lui aggiunge con una punta, sempre prima degli esami, quindi significa che non erano innamorate di lui. Dice, per così dire, faceva sesso con le allieve, non più il giudice. Esatto. Naturalmente, però, viene assolto. Non c'è la condanna, viene assolto e il prese dice: siamo ansiosi di tornare con noi. E lui bacchetta comunque, ma come se anche in quel caso una sentenza di assoluzione costituisse comunque un via libera deontologico. Dice il comportamento è comunque disdicevole, fare sesso con le allieve. Anche questo esempio esemplifica molto, però. Perché? Perché se lo dicessimo io e te, che facciamo gli osservatori del costume, come pezzo del mestiere della nostra professione giornalistica, ha un senso. Se lo fa un ex giudice e magistrato, invece, assume un'altra veste. Perché dice, accidenti, me lo hanno prosciolto. E comunque io dico che è colpevole, non bisogna prendere. No, tu fai quel mestiere, altrimenti fai il moralista, giudice, che è un altro paio di maniche. Cioè, bisogna distinguerle proprio queste due cose. Può avere anche un pensiero personale, cioè al di là della soluzione. Stiamo parlando di quello. Come vedi, allora c'è il pensiero personale sul pedofile, sul trans, guarda quante volte ricorre il sesso in questi esempi. Per esempio, perché il professore scopava le lune e il trans. Non c'è una veste un po' moralista. Un atteggiamento, una veste un po' moralista ce l'ha. Però da lì arriva alla politica. Fa l'esempio del professore con le allieve per dire: vedete, la politica, magari alcuni comportamenti non sono illeciti poi dal punto di vista penale. Ma non ti colpisce che lui dice che la politica è come il professore che scopa con le allieve? Guarda che a me colpisce. Guarda che i politici l'immaginario così, descrittivo ti dà l'idea del moralismo di Davigo. È un po' così. Comunque ci ha chiamato Vincenzo da Napoli. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a lei. Volevo fare presente una cosa: a prescindere da ogni considerazione sulle singole persone o le singole opinioni, sulle singole vicende, io credo che la magistratura in generale nell'ultimo periodo si è assunta il ruolo di giudice etico su qualunque questione istituzionale, ma anche nei rapporti fra cittadini. Mi pare notare invece che fra tutti i poteri dello Stato, oltre che le istituzioni e le infrastrutture, sia quella che funzioni peggio. E non lo dice Vincenzo, lo dice molto probabilmente il resoconti internazionale su quelli che possono essere la durata media dei processi. Ah, dicono che loro sono pochi, che non è colpa loro. Ma io non so se questi siano pochi oppure no. A me pare anche la questione dell'orario di lavoro dei giudici o dei tempi delle ferie. Voglio dire, tutti i torti probabilmente, chi dice che 2 mesi all'anno di vacanze sono un po' troppi, rapportiamoli in giornate di lavoro, sono probabilmente il 15% di forza lavoro in più, di ore lavoro del giudice. Non tocchi la questione dei magistrati, perché Davigo risponde anche a questo e dice: segnalo i dati della Commissione del Consiglio d'Europa, i giudici italiani su 47 stati membri sono quelli che lavorano di più, di tutti. Però sai, questo non è un bello esempio, vuol dire che dovunque si sono costituiti il diritto a lavorare meno. Quindi questo esempio da solo non vuol dire niente. Dovrebbero lavorare di più, non degli altri. Devi giustificare con statistiche di produttività, perché se me lo dici dalle altre parti lavoriamo meno tutti, complimenti, siete una bella congrega di privilegiati. Questo diventa il mio commento. Cioè sono ancora più privilegiati in Francia e Germania. Forse hanno anche meno da fare, però detto questo si danno anche meno da fare da soli. Questo è il piccolo particolare. Italo da Milano, ce la facciamo rapidamente? Dobbiamo andare poi in pubblicità? Italo, buongiorno. Buongiorno, dunque... Pronto? Volevo dirvi che ascolto sempre con piacere la vostra trasmissione. Ma bene. Volevo soltanto fare notare una cosa. Io ho una formazione scientifica, non giuridica, però mi ricordo che Di Pietro spiegava e mi aveva spiegato che si poteva arrestare le persone per la possibilità di reiterare il reato, confondere le prove oppure no, è la legge di Pietro, la legge. La legge, allora la legge per quando qualcuno commette un furto e poi viene scarcerato, poi ne commette un altro, poi viene scarcerato, poi ne commette un altro, è in attesa di giudizio, sembra non considerare la reiterazione del reato. Mentre invece per altri reati questa regola vale. Italo, si fermi qui Italo, perché ho detto di essere breve e siamo stati un po' lunghi e anche, però non avrò capito io, Italo, non perfettamente chiari, nel senso, Oscar, tu hai capito il senso? No, io ho capito, ma non c'entra con il giustizialismo di cui stiamo parlando, caro ascoltatore. Il magistrato valuta di volta in volta se ci sono gli estremi per custodia cautelare, seconda, A della flagranza, B della gravità del reato, C la reiteratività viene e come la recidività viene considerata sì e come. Quindi naturalmente l'impressione che vi viene data invece è che ci siano bande di ladri che vengono lasciate libere dai magistrati. Questo ha a che vedere con un'altra maniera, e quello il modo in cui la politica vi descrive quello che fanno i magistrati. Attenzione, però perché se volete vedere c'entra col tema che affronteremo tra poco, la sicurezza nelle città, perché è perfettamente in linea. A maggio è annunciato un pacchetto di misure del governo per dare più potere ai sindaci in quello di arrestare sicurezza. I magistrati scusa, smettila. Arrestiamoli tutti. Cardinal Giannino la richiama all'ordine, guardi che anche se ha l'extraterritorialità Secondino può venire sempre, questo è poco. Dai, tra poco avremo 2 sindaci per capire di che cosa si tratta, insomma, la sicurezza. Che hanno opinioni diverse e quindi si arresteranno tra di loro. Si arresteranno. No? Sto scherzando. Poco. Ciao. Siamo qui, Oscar, alle 8:42 minuti. Eccoci qua, Sant'Agnese, pensaci tu. Va bene, Sant'Agnese. Allora, non abbandoniamo il tema legalità, anche se, un altro anche se lo affrontiamo da un altro punto di vista. Ah, credevo avesse arrestato qualcuno. No. No, no, no, non lo so, non ho visto le agenzie, ma non credo, non credo per il momento alle 8.43. Sai che a maggio Renzi, il governo, ha promesso un pacchetto per dare più potere ai sindaci in tema, sì, di sicurezza, tipo tolleranza zero contro la prostituzione, la possibilità di vietare cortei nel centro storico della città e fare il DASPO. Non so, uno spacciatore lo cacciamo dalla città. Come le curve, gli come, ultras. Come negli ultras. Ne sai qualcosa. Come nel calcio, esatto. No, non ho preso DASPO. No, però. Non ho preso DASPO. Ne vogliamo parlare col sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, del Partito Democratico. Buongiorno sindaco, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Ma, e anche... Anche io, perché a me la domanda... Presentiamo il secondo ospite, perché è con noi anche... Il sindaco di Padova, Bitonci, Massimo Bitonci della Lega. Buongiorno sindaco, eccoci. Io volevo partire da fare una domanda a Bitonci dicendo, ma Bitonci ha capito... Secondo lei ci aspetta dalla sinistra l'arrivo di poteri di sindaci sceriffi come quelli che piacciono insomma un pochino a voi? È così? Ha vinto? Ma il tema secondo me è un tema anche elettorale, visto che ci avviciniamo alle elezioni amministrative, quindi questo è un momento migliore per uscire con un tema così caldo. In realtà già nel 2008 con il decreto Maroni sono stati dati molti poteri ai sindaci, quindi la possibilità di contrastare anche il degrado urbano con ordinanze che non erano solamente urgenti, quindi con TGB urgenti, ma ordinanze proprio nel tema della sicurezza pubblica. Quindi è una cosa che è già inserita questa nella norma. Peccato che poi la Consulta ha cassato proprio la possibilità di fare ordinanze proprio in alcuni temi e soprattutto che durino nel tempo. Quindi ordinanze, i sindaci adesso possono emettere ordinanze che però hanno una limitatezza temporale. Però io per esempio già nella mia città quello che non posso fare con le ordinanze lo faccio attraverso il regolamento di polizia urbana, cioè il divieto di accattonaggio, il divieto di bere alcolici all'interno. Però se le arrivasse la possibilità, lasci stare la questione elettorale che peraltro è una questione che magari tratteremo, però l'idea di avere un po' più di poteri le piace, che venga da sinistra, questo, che venga da destra. No, ma questo sicuramente, cioè, sicuramente dopo però bisogna anche capire poi i ricorsi al TAR, perché molte delle nostre ordinanze vengono cassate proprio dai giudici amministrativi e dopo le competenze con la prefettura, perché non ricordiamo chi ti ascolta, in modo da chiarire, che i sindaci dei comuni piccoli, quelli dove non c'è la questura, dove non c'è ci sono i carabinieri, hanno già poteri di PS, di pubblica sicurezza e di PC, di polizia giudiziaria, mentre i sindaci dei comuni più importanti come il mio operano attraverso la prefettura, attraverso il comitato per l'ordine pubblico, quindi per capire anche come possono i sindaci dei comuni più grandi bypassare alcuni provvedimenti che sono tipici invece della prefettura e della questura. Qui Matteo Ricci l'accusa un po' di fare qualcosa a livello elettorale, no? Casualmente un mese prima di votare nelle città si risponde alla sicurezza, che è uno dei temi più sentiti dai cittadini. Come replica lei? Ma l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, sta trattando con il governo su questi temi da 2 anni. Siccome in Italia si vota tutti gli anni, anzi ogni 6 mesi c'è un'elezione, se stiamo dietro alle tornate elettorali non si fa mai nulla. E invece credo che si voglia dare con un decreto una risposta ai sindaci che da alcuni anni hanno addosso, anche da parte dell'opinione pubblica, tutte le responsabilità anche in un tema che non è strettamente di sua competenza, di loro competenza, come la sicurezza. Gli si vuole dare qualche strumento in più. Dobbiamo fare chiarezza, quindi non si tratta di fare i sindaci sceriffi. L'ordine rimarrà una competenza dello Stato, gestita dai prefetti e ovviamente con l'operatività delle forze dell'ordine. Si tratta di dare qualche strumento ai sindaci in più per intervenire su particolarità delle singole città. Ma quale? Cioè, ci faccia 2 esempi. Ma in particolar modo sul degrado. Prima degrado. Il sindaco di Padova diceva, io ad esempio ho fatto un'ordinanza contro il tema dell'abusivismo nei parcheggi o davanti all'ospedale, e ho fatto un'ordinanza in accordo col prefetto per dare uno strumento in più alle forze dell'ordine e ai vigili urbani per intervenire. Su molte questioni però del degrado urbano questa cosa non è possibile, dalle cose più piccole ma molto fastidiose come i writers alle questioni che riguardano il degrado nello spazio dei centri storici, piuttosto che la gestione del fenomeno dell'immigrazione, dove spesso e volentieri noi sindaci ci siamo sentiti scavalcati dai prefetti e quindi siamo in qualche modo a volte usciti dalla regia di una gestione di un'emergenza che purtroppo durerà degli anni. Sì. Sono strumenti in più pragmatici e ogni sindaco che sa bene cosa vuol dire fare il sindaco sa che sarebbe uno strumento appropriato e giusto, a prescindere che lo faccia un governo di sinistra o un governo di destra. Sì, quando le cose sono giuste, a prescindere dalle campagne elettorali. Poi la vedevo, Oscar, i writers, ma sai che voglio mettere anche il carcere per i writers, forse? Questa a me, non lo so, questa fa un po', lascia un po' perplesso. No? Lascia perplesso anche a me, però è anche vero che poi il degrado e i danni che provocano esistono, cioè questo bisognerebbe aprire un grande dibattito su... lasciare spazi pubblici per questo tipo di espressioni. Però i writers lo sai che sono contrari a questa impostazione, loro vogliono prenderseli, individuarli loro, sì, quando sono poi beni pubblici e il contribuente che paga, quindi sai, è un problema un po' delicato. Io rimango colpito quando magari ci sono assessori come a Milano che imbrattano le macchine in seconda fila e dicono che lo rifarebbe. A quel punto dice, allarga le braccia, dice, vabbè, allora. Se tu imbratti una macchina in seconda fila, io imbratto il portone del comune, non lo so. Ma scherzi. Però in realtà è logico l'esempio che dici. Sottolinea l'improprietà, no? Di un assessore che fa cose simili. Però io quello che voglio capire, ancora un secondo da Ricci, è una cosa: non si potrebbe anche aggiungere, oltre a questa iniziativa di cui vedremo il contenuto, ma che l'ANCI sta patrocinando da tempo, non si potrebbe anche aggiungere un invito ai prefetti a essere più rispettosi dei poteri dei sindaci? Perché io vorrei capire, da voi che siete amministratori, è il prefetto che impugna o dietro c'è un'indicazione anche centrale Viminale? Perché un po' conoscendo i prefetti io credo che ci sia anche questo secondo aspetto, quindi per così dire forse bisognerebbe anche dire ai prefetti di essere meno pronti a impugnare le norme. Bitonci, per esempio, che dice di questo? Ma questo è assolutamente vero, condivido quello che dice Giannino, cioè molte volte i sindaci vengono visti dai prefetti solo come quelli che devono pensare magari attraverso la polizia urbana e dare le multe alle auto e quindi non fare assolutamente sicurezza. In realtà anche, come dicevo, decreti precedenti danno ruoli importanti, anche il testo unico della sicurezza pubblica danno ruolo importante ai sindaci nel campo della sicurezza, che operano o attraverso il comitato o attraverso dei provvedimenti ad hoc che molte volte gli stessi prefetti cassano, è vero. E quindi magari anche il governo tramite Alfano, Ricci, lei che pensa? Che Bitonci abbia torto? Ma è chiaro che i prefetti sono gelosi della loro autonomia, del loro ruolo, questo è normale. Però la mia esperienza personale da amministratore, insomma, mi dice che quasi sempre c'è una grandissima collaborazione, non ci sono tensioni, ci va a vedere in Italia i luoghi dove ci sono state tensioni tra sindaci e prefetti sono veramente pochi, a volte proprio perché si vuole strumentalizzare politicamente una vicenda e allora si creano tensioni o perché c'è un contrasto caratteriale. Se verrà fatto questo, quando verrà fatto questo decreto, io proverò ad inserire anche un'altra cosa, nel senso che c'è anche un altro elemento del degrado che viene sottovalutato. In molte città negli ultimi anni, anche a causa della crisi, ci sono edifici privati abbandonati. Su questi edifici privati per un sindaco è difficilissimo intervenire, anche se sono in zone centrali che creano degrado, se sono in un centro storico, se sono in una zona. E lei cosa vorrebbe? Bisogna dare qualche strumento in più ai sindaci per intervenire, perché oggi un sindaco può obbligare ad intervenire il proprietario soltanto per motivi di pubblica sicurezza, non per motivi di degrado urbano, ma non si calcola ad esempio il danno economico che un edificio abbandonato in una zona strategica della città crea, oltre ovviamente a volte... Ma che strumento può ipotizzare? L'esproprio, voglio dire? Qualcosa in più, adesso non voglio arrivare all'esproprio, però qualcosa in più. A oggi i sindaci hanno le mani legate e ogni qualvolta c'è una situazione del genere tutti danno la colpa ai sindaci, che però purtroppo non possono fare nulla, se non sgomberare un edificio privato per motivi di igiene o di pubblica sicurezza. Ma quell'edificio rimane abbandonato, non si può far nulla se non per motivi di pubblica sicurezza, cioè se cade o se ha degli aspetti del palazzo che cade. Lei sa che il precedente è che a Napoli il sindaco del Magistris ha puntato molto su questo, ha emesso provvedimenti, è stato bloccato poi, quindi, perché la legge non è quello che ci diceva Bitonci prima, siccome fra l'altro il governo giustamente ha stanziato 500 milioni per le periferie, per la riqualificazione delle periferie, ed è un provvedimento giustissimo, uscirà il bando a giorni e quindi sarà un ulteriore aiuto ai sindaci a trasformare le periferie dopo lo sblocco del patto di stabilità che c'è stato. Questo elemento qui secondo me potrebbe essere un elemento da inserire dentro un decreto del genere che riguarda sì la sicurezza urbana, ma parla della sicurezza urbana partendo dal degrado, sì, e questo elemento è un elemento di degrado importante nel sistema. poi dovremo vedere i contenuti di questo provvedimento e come ci ha detto Bitonci, effettivamente se questi contenuti poi reggeranno a eventuali ricorsi al TAR, perché poi c'è sempre un TAR, sempre c'è lì. Sempre un giudice a Berlino e c'è sempre un TAR in Italia e ci sono troppi giudici amministrativi in Italia poi in ogni regione, eccolo là. E abbiamo sistemato anche loro, ma no, ma questa è la Repubblica dell'impugnativa, no, intanto ringraziamo Matteo Ricci, sindaco di Pesaro del Partito Democratico, e Massimo Bitonci, sindaco della Lega di Padova. Sa cosa ci aspetta oggi sulla vicenda più ridicola del mondo bancario che avviene in Italia? Lo so, il Sole 24 Ore la pensa diversamente, ma io la sparo qua. Guardate l'aumento di capitale in corso alla Popolare di Vicenza, che parte da 62,5 euro che voleva il titolo a 10 centesimi, sta ridendo piegato in due il mondo. A, non è colpa dei tedeschi, B, non è colpa dei fondi locusta americani, mi dispiace per l'informazione che si piega, io la penso diversamente, chiusa parentesi della viva di libertà personale. Vabbè, perché è una vicenda di fronte al quale io vi assicuro, cari ascoltatori, tutti gli analisti del mondo ti mandano il report, non c'è una sui giornali italiani vi raccontano che è colpa degli altri. Guardate, è una un'informazione economica piegata a questo, fa pena a me stesso e a tutti noi. Questa è la mia, quando dico tutti noi dico molti colleghi che sono costretti purtroppo a piegare la testa, perché questa è la linea che viene dall'alto. Allora ci fermiamo qui con Peter Bescapè in regia, con i nostri Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi in redazione. Caro Oscar, domani mattina siamo qui alle 8:20 più o meno e vedremo che santo pregare domani. Santo pregare. Angelica, auguri. Grazie.